La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. L'articolo 65 riguarda i casi di ineleggibilità e incompatibilità. Questi due termini, incompatibilità e ineleggibilità, sono per noi quasi dei sinonimi, perché vanno a identificare in fondo lo stesso fenomeno, cioè bisogna evitare i conflitti di interesse. Quindi bisogna evitare che possa arrivare in Parlamento un soggetto, un cittadino, che non sia pienamente libero e indipendente rispetto alla cittadinanza. Mi spiego, l'ineleggibilità riguarda una vera e propria incapacità elettorale, cioè non si può essere candidati, non si può essere eletti se in un periodo precedente alle elezioni si è svolta una funzione che potrebbe mettere in dubbio la piena imparzialità nell'elezione. Ad esempio, i prefetti, i funzionari di polizia, i militari di un determinato territorio, ma ancora i sindaci, il capo della polizia, i capi di gabinetto dei ministri, non possono essere candidati e quindi non possono essere eletti se non si dimettono almeno 180 giorni prima delle elezioni. Questo perché? Perché nelle loro funzioni territoriali potrebbero influenzare l'elettorato e quindi avere una facilitazione nella eventuale elezione. Diversa è l'incompatibilità. L'incompatibilità sopravviene quando dopo l'elezione si va a verificare che ci sia la contestuale titolarità di ulteriori cariche incompatibili con quella di parlamentare. Per esempio, non può essere un parlamentare titolare di cariche amministrative in istituti finanziari o bancari, o non può ricoprire una carica di vertice in enti pubblici o privati. Questo perché? Perché ovviamente con la sua attività di parlamentare potrebbe influenzare l'andamento e la gestione di determinati settori in cui quegli enti operano. In questo secondo caso parliamo di incompatibilità, cioè una volta eletti non puoi avere anche altre cariche. Nel primo caso invece parlavamo di ineleggibilità. Se prima delle elezioni ricopri una determinata carica, non puoi neanche essere candidato e neanche essere eletto.